GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Con i progetti di sviluppo da 12.000 treni l'anno arriveremo a 25.000, lo ha annunciato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale. Nel 50° anniversario del sisma del 76, il mondo artigiano del Friuli Venezia Giulia celebra la festa di San Giuseppe a Gemona, premiati artigiani e aziende che si sono distinti nella loro professione. A Udine si celebra la giornata nazionale sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo promossa dall'ANFAS. Tra le novità, il nuovo appartamento legato al progetto Dopo di Noi accoglierà disabili intellettivi che potranno sperimentare la vita autonoma. A Pordenone, al via Due Fiere, Ecocasa, il salone dedicato alla ristrutturazione e al risparmio energetico, e Pet Show Nord-Est, nuova manifestazione dedicata agli animali. Il castello di Muggia apre per la prima volta le porte al pubblico con la nuova proprietà, Federica Alessio, che vive negli Stati Uniti ma che ha un forte legame affettivo con la cittadina. L'iniziativa nell'ambito di Castelli Aperti, 19 quelli visitabili nel weekend nelle 4 province del Friuli Venezia Giulia. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Il futuro economico dei porti di Trieste e di Monfalcone in apertura con l'intervento del presidente dell'autorità del sistema portuale del mare Adriatico orientale, Marco Consalvo, in un incontro organizzato da Federmanager. Gestiamo 12.000 treni l'anno, di cui 10.000 Trieste. I progetti previsti ci consentiranno di arrivare a 25.000 treni l'anno, ha annunciato Consalvo, che ha anche detto: lo sviluppo di Monfalcone sta crescendo molto, con una grande possibilità di realizzare queste opere, con un primo scoglio però da bypassare legato a Servola. Dagli attuali 12.000 a 25.000 treni l'anno sono le prospettive di sviluppo, secondo il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Marco Consalvo, che in un incontro organizzato da Federmanager ha spaziato a tutto campo sui vari temi che riguardano il futuro dei porti di Trieste e Monfalcone. Centrali progetti del PNRR, in particolare quello per Servola, la cui gara è stata fermata a causa dei vincoli temporali legati appunto al PNRR. Si tratta ora di vedere formalizzata da parte del Ministero la riprogrammazione dei finanziamenti per un valore di 180 milioni di euro alla scadenza del 2029 o del 2030, cui dovrà seguire l'aggiornamento del progetto che risale a 2 anni fa. A quel punto potrà partire la gara. Servola rappresenta per Consalvo un primo scoglio da bypassare per lo sviluppo concreto e importante del porto di Trieste, che deve avvenire in maniera organica con il tessuto urbano e di pari passo con lo sviluppo di Monfalcone, che a sua volta sta crescendo molto e per cui una componente fondamentale rimane quella ferroviaria. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia il prossimo anno scolastico comincerà il 14 settembre. Lo ha stabilito la Giunta regionale con una delibera presentata dall'assessora all'istruzione Alessia Rosolen. Il termine dell'anno scolastico è fissato invece per il 9 giugno 2027 per le primarie e per le secondarie di primo e secondo grado. Le scuole dell'infanzia proseguiranno l'attività fino al 26 giugno 2027. Previste una serie di sospensioni come quelle natalizie, pasquali e di carnevale. Le scuole hanno la facoltà di modificare il calendario sulla base di una motivazione. Nel 50° anniversario del sisma del 76, il mondo artigiano della regione celebra la festa di San Giuseppe a Gemona, premiati artigiani che si sono distinti nella loro professione e nel corso della propria attività lavorativa. In particolare, riconoscimenti sono andati a 20 aziende, di cui 5 con un collegamento significativo proprio al terremoto. Un mondo resiliente che ha superato le difficoltà del passato e si prepara ad affrontare le sfide presenti. È l'artigianato nel ritratto che emerge in occasione della giornata di San Giuseppe Artigiano, celebrata da Confartigianato Udine, non a caso in una scuola, l'ISIS d'Aronco di Gemona, dove vengono formate le prossime generazioni di lavoratori del settore. Simbolica poi la scelta stessa di Gemona, 50 anni dal terremoto. La ricostruzione passò anche per le mani degli artigiani. Ora, con oltre 27.000 imprese attive, le prospettive di lavoro sono buone, ma le preoccupazioni non mancano. Il presidente provinciale di Confartigianato, Graziano Tilatti. La nostra preoccupazione è il dato demografico, il ricambio generazionale, sia come artigiani sia come le risorse umane che stanno all'interno delle nostre aziende. Per l'occasione sono state premiate 20 realtà artigiane della zona e settore per settore i problemi sono confermati. Mancano lavoratori, mancano maestranze, in particolare nell'edilizia. Paolo Dri, a capo del settore edilizia di Confartigianato. Sloveni, croati, macedoni che prima del Covid erano qua in maniera molto stabile. Queste persone non ci sono più, col Covid sono uscite, quindi stiamo vivendo una situazione di difficoltà sulle persone e sulla preparazione delle persone. A questo si aggiungono gli aumenti dei prezzi causati dalla guerra, sia per le materie prime sia per i trasporti, e lo conferma Angelo Dagaro, capo di un'azienda dei trasporti premiata oggi. Un'azienda, per affrontare queste situazioni, deve investire nel tempo, sia in mezzi che in personale, oltre che instaurare con i clienti un rapporto solidale, nel senso che il cliente lo sa bene che l'aumento del gasolio non è che dipenda da noi, quindi ci deve venire incontro nelle spese vive. I rincari arriveranno, sono previsti e impattano anche nel settore del lusso, come quello degli arredamenti in legno su misura. Michela Zanon è a capo di un'impresa del settore. In questi ultimi 15 giorni ho ricevuto continue mail dai miei fornitori che sono prossimi agli aumenti. Dal 1° aprile aumentano tutti e quindi chiaramente diventa un problema, perché se tu hai già delle commesse acquisite devi comunque fartene carico, sobbarcarti e ammortizzarle in qualche modo. Gemono del Friuli, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Porte aperte dell'ANFAS Udine, che ha presentato le sue attività. L'iniziativa celebra la 19ª giornata nazionale sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo. Un ANFAS Day che ha portato un'importante novità annunciata in anteprima: uno spazio destinato al dopo di noi, un luogo sicuro per accogliere le persone con disabilità. Ce lo racconta la presidente di ANFAS Udine, Maria Cristina Schiratti. Oggi festeggiamo i 68 anni di ANFAS nazionale. L'ANFAS nasce a Roma nel 1958 e in realtà 58 anni di ANFAS Udine, perché noi siamo nati nel 68 del secolo scorso, e quindi porte aperte per festeggiare tutte le novità. C'è una novità importante, è una novità che riguarda un pensiero che è abbastanza presente nelle vostre attività, il dopo di noi. Ci può raccontare di che progetto si tratta? Allora, finalmente siamo riusciti ad avere anche noi il nostro appartamento per il dopo di noi, perché il problema è stato quello di riuscire ad ottenere un appartamento per conto nostro. La regione ha deciso in Friuli Venezia Giulia di finanziare soltanto gli enti gestori pubblici, quindi non dà soldi al privato sociale, io spero che cambi presto idea, e quindi ci siamo organizzati da soli. E quindi mercoledì scorso, cioè 2 giorni fa, abbiamo firmato il rocito e a breve partiremo, faremo l'inaugurazione. È un appartamento dotato di tutti i comfort specifici, ma ce lo descriva un po'. Allora, è un appartamento 3 camere, 2 bagni, cucina, salotto, è un bel appartamento. Noi staremo molto attenti, per esempio, in cucina ad avere l'induzione per non ferirsi. La nostra scelta è stata quella, una persona per camera, perché secondo me chi lascia la famiglia e va a vivere da solo deve avere un suo spazio, suo, non può condividere la camera con qualcun altro. Io dico che in questo caso i costi non ci si deve pensare. La persona ha una dignità, deve avere una certa qualità di vita e ha diritto alla camera da solo. In questo specifico caso, di quante persone parliamo che potrebbero avere diritto a questi spazi? Allora, ci sono 2 posti, 2 camere per persone fisse, cioè che vadano a viverci, e poi, parlando anche con i servizi sociali con cui collaboriamo, l'idea è quella di aprire anche una palestra di vita dove persone a turno possono andare a imparare come si fa da mangiare, come si fa la spesa. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono state 8.134 le nuove partite IVA aperte in Friuli Venezia Giulia nel 2025, un dato leggermente inferiore, meno 1,5%, 120 in meno, rispetto a quello del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'IRES regionale curato dal ricercatore Alessandro Russo sulla base di dati dell'anagrafe tributaria. A livello territoriale solo le province di Gorizia e Trieste hanno registrato degli incrementi. Il dato della provincia di Pordenone è rimasto quasi invariato, mentre la diminuzione osservata si è concentrata nella provincia di Udine con un meno 4,9%. Le attività professionali, scientifiche e tecniche si confermano quelle in cui più frequentemente prendono avvio i percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale. Un dato da segnalare è il numero elevato di nuove partite IVA nell'ambito dell'istruzione, che negli ultimi 3 anni sono state costantemente sopra le 300 unità, legate presumibilmente a mansioni come quelle di formatori o di impiegati in istituti che forniscono forniscono servizi di ripetizioni scolastiche. Tornando ai dati, nel 2025 il calo di partite IVA è stato particolarmente marcato per le società di persone, oltre un quinto in meno dell'anno precedente. Per quanto riguarda le persone fisiche, nel 2025 la contrazione ha interessato esclusivamente gli uomini, mentre si registra un incremento delle aperture effettuate dalle donne, più 3,2%. La dinamica negativa, inoltre, ha riguardato solo le persone che rientrano nella fascia d'età compresa tra i 36 e i 50 anni, mentre risultano in crescita le aperture degli over 50 e anche quelle degli under 35, grazie anche alla possibilità di aderire al regime forfettario. La cronaca: sono stati arrestati in flagrante dopo aver messo in atto ai danni di un 80enne di Muggia la truffa del finto carabiniere. A finire in manette nella giornata di venerdì, ad opera dei veri carabinieri di Udine in collaborazione con quelli di Trieste, una 44enne di origine campana e il figlio di 24 anni. Era stato proprio quest'ultimo a telefonare a casa della vittima spacciandosi per un maresciallo e invitando il marito a presentarsi al locale comando dell'arma con il pretesto di un possibile coinvolgimento in una rapina dell'autovettura a loro intestata. Appena la donna è rimasta sola in casa, si è presentato il finto maresciallo, che l'ha convinta a consegnare 20.500 euro in contanti e vari monili in oro per un valore di circa 80.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Udine hanno permesso di arrestare i truffatori appena fuori da casa della vittima, nonostante un tentativo di fuga. I due sono ora rinchiusi al carcere del Coroneo. Una perquisizione nella struttura ricettiva dove erano ospiti ha permesso di trovare altri gioielli in oro per un valore di 15.000 euro, riconducibili ad un'analoga truffa compiuta il giorno prima a Povoletto, ai danni di una donna di 89 anni. La refurtiva relativa ai due episodi, interamente recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari. Fare chiarezza sul futuro di Acegas APS AMGA lo chiede la CGIL in vista della scadenza della concessione. Per il sindacato la gara pubblica appare la strada migliore, che permetterà di garantire nell'immediato futuro e in prospettiva, da un lato, elevati standard qualitativi dei servizi gestiti da Acegas APS AMGA, dall'altro, il mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia delle importanti professionalità presenti all'interno dell'azienda, eredità di una storia lunga 100 anni. E questa è la posizione espressa dal segretario generale Michele Piga e da Fabrizio Zacchigna, referente della Filctem CGIL, in merito alla ventilata ipotesi di scorporazione del servizio idrico della Multiutility Triestina, la cui concessione scade a fine 2027 in vista del passaggio a una gestione in-house e di una fusione con il CAFC. Il disegno, al centro delle scorse settimane di una serie di indiscrezioni di stampa e finalizzato a quanto si è detto alla creazione di un'ipotetica Multiutility regionale dell'acqua e dei rifiuti, lascia a dir poco scettica la CGIL, che sollecita una chiara presa di posizione dei comuni titolari del servizio, per sgomberare il campo da ipotesi fuorvianti, capaci solo di generare incertezza e preoccupazione tra i cittadini e i lavoratori, sostengono Piga e Zacchigna. Un appuntamento politico questo pomeriggio a Udine alle 15 nella libreria COP Friuli in via dei Rizzani si terrà l'incontro Cultura, diritto, non privilegio con il componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Matteo Orfini. A Trieste Orfini è intervenuto sul rinnovo del contratto per cui ieri c'è stato lo sciopero dei giornalisti. Si trovi sintesi per la retribuzione, per il riconoscimento professionale e per le tutele previdenziali, ma dopo l'avvento dell'intelligenza artificiale la politica dovrà prendere in carico l'esame dei processi di lavoro, della proprietà intellettuale, di responsabilità, formazione e competenze, ha detto Orfini. L'utilizzo di collaborazioni sottopagate nell'editoria sembra replicare le catene di sfruttamento della logistica, secondo un modello di sfruttamento che non possiamo accettare adesso. 12:43:40 secondi, siamo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 14 gradi, a Gorizia 15,5, a Udine 15, a Pordenone 14, a Tolmezzo 12, a Forni di Sopra 10, a Tarvisio 9, a Sappada 4. Sul Monte Zoncolan 1,5 gradi, sul Monte Lussari meno 1 grado, sulla costa a Lignano 15, a Grado 12. Ma sentiamo le previsioni per il weekend di Francesco Sioni. Buongiorno, nella giornata di oggi abbiamo afflusso di correnti secche, la giornata quindi rimarrà all'insegna del bel tempo con cielo sereno su tutte le zone. Domani invece avremo maggiore variabilità, alternanza di momenti di schiarite a momenti con nuvolosità più consistente, comunque potremo raggiungere massime in pianura attorno ai 15-18 gradi e tra i 14 e i 17 sulla costa. Vento moderato da nord in quota, in montagna moderato da nord-est sul Carso e a Trieste. Lunedì una giornata che vedrà cielo variabile o cielo nuvoloso, solo in tarda serata con ingresso di aria da nord inizierà maggiore instabilità, quindi qualche precipitazione a partire dalla zona montana che poi si espanderà in serata verso la pianura e verso la costa, con la possibilità quindi anche di qualche rovescio e qualche temporale, quota neve fino a circa 900 metri. Martedì infine una giornata che vedrà cielo in prevalenza nuvoloso, senza precipitazioni, ma vento da nord in quota, da nord-est sulla fascia orientale, che potrà essere anche sostenuto in quota sulle vette e a Trieste. Temperature lunedì e martedì sotto la media del periodo. Torna l'edizione primaverile di Castelli Aperti. 19 castelli di more storiche e manieri, spesso non accessibili al pubblico, accoglieranno i visitatori in un itinerario diffuso che attraversa l'intero territorio regionale. Durante il weekend i visitatori saranno accompagnati dai proprietari o da guide turistiche professioniste alla scoperta di sale, giardini, cortili e dettagli architettonici, attraverso racconti e aneddoti capaci di restituire vita e memoria a questi luoghi. Accanto alle visite guidate, molti castelli proporranno iniziative collaterali. Oggi siamo andati a vedere il castello di Muggia, che da poco ha una nuova proprietaria. Si chiama Federica Alessio, vive negli Stati Uniti, ma ha un forte legame affettivo con Muggia e con lo stesso castello. Sentiamola. E proprio nella giornata di Castelli Aperti siamo a Muggia con Federica Alessio, che è l'acquirente del castello di Muggia da qualche mese. Buongiorno. Nel 2026, per che motivo una giovane coppia decide di comprarsi un castello? Bene, allora, intanto per comprare un castello prima di tutto bisogna amarlo, e io sicuramente lo amo tanto perché mi sono sposata qui con mio marito 12 anni fa e da quel giorno là è rimasto per me sempre nel mio cuore. È stato un investimento anche perché qui voi volete fare iniziative culturali. Più che un discorso di investimento, per me è un discorso di un progetto per valorizzarlo e per valorizzare la città di Muggia. E noi abbiamo appunto fondato anni fa una fondazione privata proprio per la valorizzazione dello stato del patrimonio culturale e artistico, e il castello di Muggia rientra perfettamente in ordine in questo progetto. Voi vivete a San Francisco e negli Stati Uniti, avete la famiglia lì. Quanto è difficile organizzare a distanza e pianificare a distanza? Ci vuole tanto impegno e tanta passione. Io sono nata a Trieste, quindi per me il territorio è proprio nel mio cuore, nella mia identità, però appunto ci siamo trasferiti all'estero per motivi di lavoro. Mio marito è un ricercatore, quindi abbiamo fatto questa scelta di andare a vivere all'estero, e portare avanti questo progetto vuol dire proprio impegnarmi 100% sia con anima e corpo, proprio per fare del mio meglio per poter fare che questo progetto vada a buon fine, che venga messo accessibile a tutti. Da Muggia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi prende il via al Politeama Rossetti di Trieste la seconda edizione del Festival Primavera da Vienna dei Wiener Sinfoniker. Parallelamente all'inizio del festival, i Wiener presentano già in anteprima la terza edizione, in programma a marzo del 2027. I biglietti sono disponibili da subito. Sin dalla fondazione, l'orchestra dei Wiener Sinfoniker è sinonimo di elevatissima qualità musicale e prestigio internazionale. Con Primavera da Vienna hanno aperto un nuovo capitolo. L'inizio musicale della primavera è stato trasferito a Trieste, una città che da sempre è considerata un crocevia di culture diverse. Lo stretto legame storico tra Vienna e Trieste, non da ultimo grazie alla tradizione dell'orchestra al Politeama Rossetti, viene così portato avanti in chiave contemporanea. A Pordenone Fiere si apre un fine settimana ricco di eventi, con due manifestazioni in contemporanea nel weekend. Da un lato torna Eco Casa, al salone dedicato alla ristrutturazione e al risparmio energetico, che si presenta con numeri in crescita. 98 aziende presenti e un aumento del 20% degli espositori rispetto al 2025. In fiera visitatori e professionisti trovano soluzioni per la casa, dalla progettazione agli impianti energetici, con focus su sostenibilità e innovazione, fotovoltaico, bioedilizia, serramenti e sistemi di riscaldamento efficienti. L'evento si rivolge sia ai privati interessati a ristrutturare o costruire, sia agli operatori del settore in cerca di aggiornamento. In contemporanea debutta Pet Show Nord-Est, nuova manifestazione dedicata agli animali. L'evento punta a diventare un riferimento per gli appassionati del mondo pet, con stand, attività ed eventi per tutta la famiglia. Protagonisti saranno gli animali, cani e gatti di diverse razze, oltre 200 conigli per la rassegna Cunicola Expo, uccelli ornamentali e rapaci, ma anche cavalli, alpaca e piccoli roditori. Accanto all'esposizione, un ricco programma con dimostrazioni di agility, pet therapy, attività educative e prove delle unità cinofile per valorizzare il rapporto tra uomo e animale. Un mese di appuntamenti per raccontare, vivere e condividere l'identità friulana. In occasione della 49esima edizione della Fiesta de Patria dal Friul, il Comune di Trieste ha messo a punto, insieme ad Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, un calendario ricco e diffuso, 15 iniziative pensate per pubblici di tutte le età, tra spettacoli, visite guidate, libri, laboratori, musica e momenti dedicati alla lingua friulana. Nel pomeriggio, dalle 16, Piazza Libertà a Udine entrerà nel vivo della festa con musiche e danze della tradizione friulana. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia, animerà la loggia del Lionello e via Mercatovecchio. Domani domenica su Rai 3 torna la nostra rubrica diffusione nazionale Est-Ovest. Sentiamone un'anticipazione. L'Albania in Europa e i rapporti con l'Italia. Ai microfoni di Est-Ovest parla il premier Rama. Il Parlamento europeo ha deciso di rinunciare completamente al gas russo entro il 2027. Waking Hours, documentario che racconta la rotta balcanica dal punto di vista dei passeur. La produzione delle grappe in Bulgaria, mille varietà e sapori di una tradizione etilica secolare. Il santuario di Zelena Hora in Repubblica Ceca, gioiello barocco dell'architetto praghese Santini. Tutto questo a Est-Ovest domenica alle 11:05 su Rai 3. È sempre domani, ma dopo il nostro GR delle 8:30 torna la trasmissione radiofonica Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani parte dai funghi di primavera, in particolare quelli della Bassa Friulana, con l'associazione micologica che ha sede a Cervignano. A seguire, limiti disattesi, quelli del Concilio di Trento, alle troppo costose per le antiche parrocchie friulane, visite pastorali. Clima variabile fondamentale per impiantare un vigneto bio di successo e poi disinfettanti, anestetici, profumatissimi chiodi di garofano dalla farmacopea alla cucina. Non solo rosso, anche il vino bianco viene sempre più di frequente affinato nel legno. Parco delle Dolomiti friulane, terra di gente forte e adattabile. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo ora allo sport con lo sci di fondo. Il sappadino Davide Graz è il nuovo campione italiano assoluto nella 50 km tecnica classica Mass Start. Il titolo lo ha conquistato ai campionati di San Barthélemy in Val d'Aosta. Calcio Serie C, oggi scende in campo la Triestina contro la Virtus Verona, 34esima giornata del girone A di Serie C, appunto in programma allo Stadio Rocco, con calcio d'inizio alle 17:30. Per la pallanuoto, oggi nella gara di ritorno dei quarti di finale di Eurocup femminile, le orchette alabardate ospineranno l'Etnikos. Si gioca alla Bruno Bianchi con inizio alle 18:30. E sempre per la pallanuoto, nella settima giornata di ritorno del campionato di Serie 1 maschile, la squadra alabardata affronterà in trasferta la Florenza. Si gioca nella piscina Nannini con inizio alle 18. Prima di salutarci vi ricordiamo che questa notte torna l'ora legale. Le lancette degli orologi andranno spostate un'ora in avanti dalle 2 alle 3. Si perderà un'ora di sonno ma si guadagnerà un'ora di luce in più. L'ora legale resterà in vigore fino al 25 ottobre. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica, in regia Bruno Montevecchi ed Eugenio Giuffrida. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.